Samuele, primo libro. C'era un uomo di Ramataim, uno zufita dei monti di Efraim, di nome Elcana, figlio di Jerocam, figlio di Eliau, figlio di Topu, figlio di Zuf, efraimita. Aveva due mogli, una si chiamava Anna, l'altra Peninna. Or Peninna aveva figli, Anna invece non ne aveva. Ogni anno quell'uomo saliva dalla sua città per fare adorazione e offrire sacrifici al Signore degli eserciti a Silo, dove i due figli di Eli, Ofni e Fines, erano sacerdoti del Signore. Un giorno Elcana offrì un sacrificio. Ora soleva distribuire le porzioni a sua moglie Peninna e ai figli e alle figlie di lei. Ma ad Anna dava una sola porzione, benché preferisse Anna. Il Signore però le aveva reso sterile il seno. La sua rivale le infliggeva continue umiliazioni per mandarle in escandescenza, in quanto il Signore aveva reso sterile il suo seno. Così avveniva tutti gli anni. Ogni volta che saliva alla casa del Signore, essa l'affliggeva. Allora Anna si mise a piangere e non voleva mangiare. Elcana, suo marito, le disse: «Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Io non sono per te più di 10 figli? Anna si levò dopo che essi ebbero mangiato e bevuto in Silo, mentre il sacerdote Eli stava seduto sul seggio presso la soglia del tempio del Signore. Nell'amarezza della sua anima pregava davanti al Signore piangendo accoratamente e fece voto dicendo: «O Signore degli eserciti, se guarderai benignamente all'afflizione della tua serva, se ti ricorderai di me e non terrai in oblio la tua serva, ma concederai alla tua serva prole maschile, io la darò al Signore per tutti i giorni della sua vita, e il rasoio non sfiorerà la sua testa». Mentre ella prolungava la sua preghiera davanti al Signore, Eli stava osservando la sua bocca. Infatti Anna parlava nel suo intimo, soltanto le sue labbra si muovevano, ma non si udiva la sua voce. Per questo Eli pensò che fosse ubriaca. Le disse dunque Eli: «Fino a quando sarai ubriaca? Smaltisci dalla tua testa i fumi del vino». Anna rispose dicendo: «No, mio signore, io sono una donna con lo spirito oppresso, non ho bevuto né vino né sicera, ma ho effuso la mia anima davanti al Signore. Non considerare la tua serva una donna perversa. È l'eccesso della mia tristezza e della mia afflizione che mi ha fatto parlare finora». Eli le rispose: «Va in pace, e il Dio di Israele ti conceda quello che gli hai richiesto». Ella rispose: «Possa la tua serva trovare grazia ai tuoi occhi». La donna se ne andò per la sua via, prese cibo e il suo volto non fu più come prima. Alzatisi di buon mattino, si prostrarono davanti al Signore. Poi, presa la via del ritorno, giunsero alla loro casa a Rama. Elcana conobbe sua moglie Anna, e il Signore si ricordò di lei. Così, al compiersi del tempo, Anna concepì e dette alla luce un figlio, cui pose nome Samuele, dicendo: «L'ho domandato al Signore». Poi il marito Elcana salì con tutta la sua famiglia per offrire al Signore il sacrificio annuale e sciogliere il suo voto. Anna non vi salì. Aveva detto infatti a suo marito: «Quando il bambino sarà slattato, allora ve lo condurrò e lo presenterò davanti al Signore perché rimanga là per sempre». Elcana, suo marito, le aveva risposto: «Fa ciò che ti piace, rimani pure fino a quando lo avrai slattato. Il Signore realizzi la tua parola». Così la donna rimase e allattò suo figlio finché non l'ebbe divezzato. Allora, dopo lo slattamento, lo condusse con sé insieme con 3 vitelli, un'efa di farina e un'otra di vino, e lo introdusse nella casa del Signore a Silo. Il fanciullo era ancora bambino. Immolato il vitello, condussero il bambino da Eli. Anna disse: «Di grazia, mio signore, per la tua vita, o mio signore, io sono quella donna che stava qui presso di te a pregare davanti al Signore. Ho pregato per avere questo bambino e il Signore mi ha concesso quanto gli ho chiesto. A mia volta lo dono al Signore. Per tutti i giorni che egli vivrà è ceduto al Signore». Poi adorarono il Signore.